Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera. Beh, mi ha un po' colpito questa settimana leggere su Famiglia Cristiana qualcosa che, sì, sappiamo già, abbiamo già visto sui quotidiani, talvolta anche sui periodici, ma che abbiamo ritrovato testimoniato in modo palese dall'Università di Torino. A cosa mi riferisco? A una sorta di analfabetismo di ritorno. In realtà è un fenomeno un po' più complesso, cioè cosa succede? Succede che persone anche di buona istruzione o quantomeno con un titolo di scuola superiore poi in realtà sembrano incapaci di dominare la realtà che le circonda e di possedere un vocabolario sufficiente, cioè utilizzano un vocabolario insomma abbastanza scarno, abbastanza povero, e quindi in questo modo in realtà capiscono anche molto meno di quello che gli accade. Ma perché vi dico tutto questo? Perché Famiglia Cristiana ha nelle sue pagine intitolate al Come vanno le cose un titolo molto accattivante: lo studente cade sul prolisso, nel senso che appunto richiesti di indicare cosa significa la parola prolisso, diversi aspiranti alla facoltà di medicina non hanno saputo spiegarlo, e tra l'altro figurano anche errori più comuni che vengono riportati dal servizio di Lisa Chiari a parte, tra cui appunto un altro con l'apostrofo, qual è con l'apostrofo, al posto di scrivere DOC, cioè denominazione origine controllata, si usa DOC al posto di ad hoc, cioè il costrutto latino che dice appunto a proposito, e poi ci sono parole proprio ignote come refuso, ad esempio, cioè l'errore di stampa, la velleità, quindi una volontà mal riposta, il procrastinare, che è il rinviare, ma che è sconosciuto a questi studenti. E l'attacco di Lisa Chiari è molto illuminante, dice: aiuto, ci si è ristretto l'italiano. L'Università di Torino spedisce le matricole italianissime di medicina a corsi base di italiano. Altri rettori, docenti e presidi lanciano l'allarme: gli studenti universitari non conoscono abbastanza la loro lingua madre. Da qui una chiacchierata con un linguista e insegnante che si chiama Andrea De Benedetti, e al quale appunto si chiede: ma si può studiare a questo livello, cioè a un livello universitario, senza conoscere parole a sufficienza? Dice: ma premesso che come parole conosci, la risposta di De Benedetti, maggiore è la fatica. Sappiamo che le parole che compongono un vocabolario settoriale medio, cioè di una certa competenza, un certo sapere, sono circa 5.000. Se uno studente domina almeno quelle, il resto si costruisce. Se invece non le ha, la faccenda si complica. Da dove viene questo impoverimento linguistico? Secondo De Benedetti viene un po' dalla semplificazione, che è molto presente nella scuola e nella divulgazione. Per il nobile intento di non lasciare nessuno indietro, si sminuzza troppo il sapere e si chiede sempre meno. Da qui poi appunto si passa al caso puntuale delle matricole di Torino, che ripeto poi non fanno altro che confermare una serie di segnali un po' preoccupanti sul dominio effettivo della lingua italiana, e chiaramente De Benedetti dice: beh, è un po' difficile diventare medico se uno non ha neanche una vaga idea di cosa significa pneumotorace, ma anche prolisso, appunto, aggiungeremmo noi, non è che sia proprio una parola di quelle da lasciare indietro. Curiosamente, nello stesso numero di Famiglia Cristiana, sempre di questa settimana, viene data notizia da Francesco Anfossi di una iniziativa molto particolare che si lega esattamente a questo. Di che si tratta? Si tratta di un libretto che è Storia da 190, l'hanno fatto gli operatori della Vodafone che rispondono alle telefonate dei clienti. Perché l'hanno fatto? Perché hanno raccolto una serie di strafalcioni che sembrano un po' tratti da Io speriamo che me la cavo, per chi ricorda il famoso libro che il maestro aveva composto utilizzando appunto i prodotti non irreprensibili dei suoi allievi. E ce n'è qualcuno che effettivamente non fa altro che confermare come ci siano delle difficoltà nel maneggiare correttamente la lingua italiana. Ad esempio, un signore chiede se può sapere dall'operatore il nome del modello o se invece deve essere proprio lui a rivolgersi al gestante in luogo del gestore. C'è un altro che dice faccio ricariche a UEFA, quindi probabilmente voleva dire ne faccio a IOSA, ne faccio continuamente, ma gli è venuta prima la sigla dell'Unione Calcistica. E un altro viene chiesto se ha tenuto il cellulare in una buona copertura, si intende naturalmente il segnale. Il cliente risponde: certo, stava nella custodia dentro la borsa. E poi ci sono anche neologismi divertenti per cancelletto. Penso che tutti sappiate qual è il tasto del cancelletto sul telefonino. Un signore ha preferito indicare questo tasto con la parola gratella 00 gratella invio, quindi con una scansione abbastanza curiosa. Da qui anche inevitabilmente dal poco dominio, diciamo, dei termini puntuali della telefonia, non colpevole per carità, o quanto, diciamo, meno preoccupante rispetto agli aspiranti medici di Torino, da qui vengono poi anche degli errori di comprensione, delle incomprensioni abbastanza divertenti, del tipo: ma da dove ci chiama esattamente? E la signora risponde: dalla cucina di casa mia. Oppure un altro che sostiene, molto allarmato: un virus mi sta affettando il telefono. Tutto questo su Famiglia Cristiana per dire che appunto ci sono probabilmente delle parole che ci stanno sfuggendo, forse la realtà diventa anche molto complicata, quindi abbiamo necessità continuamente di imparare termini nuovi, a volte termini molto tecnici, è inevitabile che si facciano delle confusioni. Qualche volta, ripeto, come segnala Famiglia Cristiana, delle confusioni molto divertenti. In ogni caso, se vi piace comunque leggere, forse vi sarete chiesti, come qualche volta è capitato anche a me, ma perché con tutta la Cina che abbiamo nell'economia non abbiamo libri cinesi di grande diffusione, o almeno di diffusione intendo paragonabile a quella dei libri di lingua inglese o di altre lingue continentali? Che cosa? Perché evidentemente questo paese, pur così presente oramai nella nostra vita quotidiana, non riesce a sfondare nelle nostre librerie? Se lo è chiesto il Newsweek di questa settimana, che racconta dell'offensiva che si sta cercando di fare da parte di alcune case editrici proprio per portare degli autori cinesi, ovviamente tradotti, anche in Occidente. Il volume più famoso, diciamo il più fortunato fuori dai confini della Cina, come volume, come diffuso, è Il Totem del Lupo, è stato tradotto anche in italiano, è stato tradotto in diverse lingue, il libro è di Zhang Rong, è considerato un best seller. Però per darvi un'idea, la Penguin, la casa editrice Penguin, se ne è assicurata i diritti mondiali per $100,000, quindi stiamo parlando di una cifra davvero molto bassa per questo tipo di iniziative. Il libro racconta la vicenda di uno studente che all'epoca della rivoluzione culturale di Mao viene spedito in Mongolia per aggregarsi ai pastori e così conoscere meglio la realtà locale e anche portare naturalmente le idee rivoluzionarie. Questo libro in Cina ha avuto una grandissima fortuna, ha venduto più di 2 milioni di copie, naturalmente il tutto va rapportato anche al numero della popolazione cinese, ma avverte lo stesso Newsweek, molte di più sono state quelle poi pirata, le copie cosiddette pirata, quindi non censite, ed è stato il secondo libro più venduto dopo Il Libretto Rosso di Mao. Però rimane un caso isolato, non ha avuto fortuna, stanno tutti cercando, riferisce Newsweek, Il Cacciatore di Aquiloni cinese, cioè un libro che possa avere un successo paragonabile a quello ottenuto dal Cacciatore di Aquiloni. Ci si sta muovendo, ci saranno una dozzina di libri che nel corso di questo nuovo anno 2010 verranno tradotti dal cinese, cercando di individuare delle storie che possano appassionare anche il pubblico occidentale, il pubblico non asiatico, e in qualche caso qualche editore sta anche muovendosi sui mercati più vicini alla Cina, comunque in zona Asia, per diciamo evitare magari il salto culturale, il salto di abitudini che potrebbe scoraggiare qualche lettore. Tutto questo su Newsweek di questa settimana, sotto il titolo dedicato appunto alla letteratura cinese, con un gioco di parole perduto o venduto nella traduzione, ricorderete il famoso film. Ben bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando dei libri che potremo leggere nel corso del 2010. Ci saranno probabilmente anche titoli provenienti dalla Cina, a colmare insomma quella che possiamo considerare una lacuna rispetto alla capacità di espansione di questo paese nei nostri confronti, nei confronti di tutto il mondo occidentale in genere. Un'altra cosa che riguarda il 2010 è prevedibilmente, si potrebbe dire, il clima, che tempo farà. Tra l'altro questa settimana c'è un curioso abbinamento tra l'Economist e Donna Moderna, perché entrambi i settimanali presentano un approfondimento sul timore che il 2010 si riveli l'anno più caldo, diciamo, degli ultimi 12, confermando quindi anche tutta una serie di assunti, di ragionamenti sul riscaldamento globale della Terra e tutto quello di cui abbiamo parlato, abbiamo letto in occasione del recente incontro di Copenaghen. Cominciamo dall'Economist. L'Economist dice si scommette che il 2010 sarà l'anno più caldo degli ultimi 12. Il riferimento in questo caso per gli scienziati è al 1998, che è stato indubbiamente l'anno in cui sono state rilevate le temperature più elevate. Poi c'è stato un calo, un grafico riportato sempre dall'Economist lo spiega, nei primi anni zero, come li abbiamo chiamati, e poi la tendenza si è invertita, abbiamo ricominciato a salire appunto negli ultimi due anni, e questo che abbiamo appena cominciato potrebbe rivelarsi l'anno più caldo. Però, avverte sempre l'Economist, capire come stanno funzionando i cambiamenti climatici del pianeta resta sempre una scommessa, una difficile sfida per gli scienziati. Molto arguto l'attacco dell'Economist, che dice può sembrare davvero implausibile in questo momento, quando la neve sta ricoprendo Nord Europa, l'Asia, parti dell'America, ma il 2010 potrebbe rivelarsi come l'anno più caldo, l'anno record quanto a temperatura. E quindi quelli che dubitano sull'effetto serra potrebbero ricevere una ulteriore smentita. Poi si prosegue in questo articolo ragionando appunto sulla capacità però predittiva e di valutazione di questi dati che abbiamo a disposizione. Se è in dubbio che possiamo misurare un riscaldamento negli ultimi anni, mettere in correlazione questo con le attività umane e darne una corretta valutazione appunto come interventi è questione decisamente più complessa. Ma più o meno lo stesso avvertimento sulle condizioni climatiche del 2010, appunto anno caldo record, viene da Luca Mercalli, dalle pagine di Donna Moderna. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, dice: sono questi i giorni freddi dell'anno, ce ne eravamo anche accorti, ma il 2010 sarà bollente. E spiega Mercalli: il 2010 non promette bene, almeno dal punto di vista del clima. Una prima previsione che è stata fatta dal Servizio Meteorologico Britannico, tra parentesi lo stesso da cui muove parte dell'articolo dell'Economist, dicevo, una prima previsione ipotizza che quello appena iniziato potrebbe essere l'anno più caldo mai registrato dagli strumenti della moderna meteorologia negli ultimi due secoli. Purtroppo non è una previsione sorprendente, spiega Mercalli, perché in futuro ci attende un mondo più caldo, con piogge irregolari, meno neve, meno ghiacciai e così via, rifacendosi un po' a quei rapporti di fonte ONU, del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, che abbiamo visto, abbiamo potuto esaminare anche in occasione del vertice di Copenaghen. La previsione quindi per l'anno in corso, nonostante, ripeto, la congiuntura di questi giorni faccia pensare il contrario, è che il 2010 si possa rivelare come l'anno delle temperature più elevate sul pianeta, se non degli ultimi due secoli, come azzarda Mercalli, quantomeno dal 1998 in poi. E Allora, visto che parliamo di ambiente, di cambiamenti climatici, comportamenti sostenibili, restiamo un attimo su Donna Moderna. Donna Moderna propone come sempre un dossier, questa volta il dossier che occupa la parte centrale del magazine è dedicata a riscaldamento, rifiuti ed energia pulita, 100 domande, 100 risposte. Ci sono una serie di consigli anche di comportamento, di ecogalateo come lo chiamano, ma anche una serie di indicazioni molto puntuali che spiegano alcuni dei termini che sentiamo sempre più rincorrersi nel dibattito, nei dibattiti televisivi, sui giornali e così via. Ad esempio, che cosa vuol dire ristorazione a chilometri zero? E si spiega che è un'iniziativa appunto che segnala quei ristoranti, esercizi commerciali che propongono menù con prodotti direttamente del territorio, quindi non fanno appunto chilometri per arrivare alla tavola. Oppure quanto incide l'imballo sul prezzo di una confezione, e si spiega sempre in questo dossier, incide anche fino al 30% del prezzo, ma ci sono dei prodotti, ad esempio nell'ortofrutta, in cui supera il valore del contenuto. Che cos'è, un'altra cosa di cui abbiamo sentito molto parlare tra novembre e dicembre? L'impronta ecologica è un indice statistico, che dà un'idea dell'usura del pianeta in rapporto alla capacità dell'ambiente di rigenerarsi, cioè quanto più è profonda l'impronta, quanto minore diventa la capacità dell'ambiente di risanarsi, di ritornare alle condizioni iniziali. E poi via via, appunto, con una serie di indicazioni sulle lampadine, il riscaldamento, l'acqua e altre cose ancora del vivere ecosostenibile, o comunque del diminuire la nostra, appunto, impronta ecologica, cose che, ripeto, via via troviamo sempre più numerose anche sui magazine, anche sui periodici. E sempre a proposito di stili di vita, c'è questa settimana in aiuto Panorama, non so quanti di voi abbiano avuto occasione di vederlo già ieri, consiglia il modo per risparmiare 500 euro al mese. Ci sono tutta una serie di consigli per ridurre, appunto, qui non l'impronta ecologica ma l'impronta economica, e alcuni sono, diciamo, più inattesi di altri. Ad esempio, si segnala in queste pagine di Panorama che, secondo uno studio di alcuni ricercatori americani, se ci si ferma troppo a toccare un oggetto in un negozio, poi si crea una sensazione di possesso che ci rende più difficile resistere alla tentazione di comprare quell'oggetto. Quindi questo è il motivo per cui in molti negozi trovate magari i capi di abbigliamento disposti sui tavoli a disposizione dei clienti, cioè facilitano in tutti i modi il contatto fisico, ma facilitando il contatto fisico sperano che appunto funzioni questo che hanno identificato i ricercatori americani. Un'altra cosa che viene segnalata in queste pagine di Panorama: bisognerebbe andare a fare spese quando si è contenti, perché la Harvard University ha condotto un altro studio. Ha scoperto che se si va a fare shopping quando si è giù di morale, si spende fino al 30% in più, evidentemente anche per bisogno di compensarsi. Altro consiglio utile, al di là dell'umore, viene segnalato sempre da queste pagine di Panorama: lasciare a casa la carta di credito, nel senso che il prelievo al bancomat, cioè il dover procurarsi il contante, rallenta o comunque rende più difficile spendere se volete spendere meno. Se proprio poi volete tenervi la carta di credito in tasca, però si consiglia di farsi mandare quei messaggi di SMS che avvisano della spesa appena fatta, in modo che si possa tenere sotto controllo, appunto, le proprie uscite. Infine, come ultimo consiglio, poi molti altri li trovate sempre su Panorama, ovviamente sono cose un po' riunite di cui abbiamo magari qualche volta parlato: abbassare di un grado il riscaldamento all'interno della propria abitazione, sostituire le lampadine con lampadine a minor consumo, e per ogni azione Panorama indica quanto può essere il risparmio. Ad esempio, secondo il calcolo di Panorama, fare il pane a casa, un elettrodomestico, quello del pane in casa che ha avuto una notevole diffusione negli ultimi anni, farebbe risparmiare al mese fino a 30 euro. E un consiglio invece che sarà sicuramente gradito più all'ascoltatore ascoltatrici, forse che gli ascoltatori, stirare meno. Bisogna stirare meno perché così la bolletta elettrica si taglia appunto anche riducendo il tempo in cui sta acceso il ferro da stiro. Quindi si consiglia di evitare di stirare alcuni capi come i calzini o la biancheria intima, che non solo magari hanno meno bisogno di essere stirati, ma consentono di risparmiare un po' di energia elettrica. Per questo tipo di risparmio, anche di un'azione diciamo non esattamente emozionante come quella di stirare, però Panorama non indica purtroppo un puntuale risparmio, un puntuale importo di risparmio. E chiudiamo con l'espresso questa settimana nella rubrica della bustina di Minerva affidata a Umberto Eco si occupa di buone e cattive notizie. Non so quanti di voi abbiano fatto caso al monito lanciato dal Papa, che diceva appunto rimproverava i media di dare sempre troppo spazio alle cattive notizie, troppo poco anche a quelle quantomeno positive, se non proprio le buone notizie vere e proprie. Sulla questione torna Eco, approfitta di una lettera che era stata inviata nelle settimane scorse a un altro magazine, quindi con un po' di circolarità, di richiamo tra varie testate, ma la sostanza è perché quando leggiamo i giornali, vediamo la televisione, tutti ci parlano di violenze, di crimini, di atti di odio, e poi invece magari nella nostra vita quotidiana abbiamo tutt'altra esperienza del mondo che ci circonda. Non è che i mass media siano sempre un po' troppo propensi a descrivere la realtà più fosca di quello che è, se lo chiede anche Eco, dice: com'è che giornali e televisioni sono diventati così perversi da dipingerci un mondo peggiore di quello che è? Dice: ma la verità è che le cose vanno così sin dall'invenzione dei giornali. Se volete un atto di accusa contro la stampa, andatevi a leggere Le illusioni perdute di Balzac. Quindi dobbiamo andare indietro di parecchi anni e già troviamo questo tipo di lamentele. Vedrete che i nostri vizi attuali hanno radici antiche, la stampa dei miei nonni e dei miei genitori, sono sempre parole di Eco, sguazzava nelle cronache criminali, trascinava per mesi, anzi per anni, la diatriba su Bruneri e Cannella, a petto della quale i nostri delitti attuali di Garlasco e di Cogne sembrano delle meteore. Qual è la differenza? Il salto è stato, dice Eco, di quantità e non di qualità. C'è molta un'abbondanza di offerta, e questa abbondanza di offerta fa sì che appunto fatalmente i toni si accendano più facilmente e che si dia più spazio a notizie che possono avere maggiore probabilità di richiamare l'attenzione del lettore. Questo è il commento di Umberto Eco su L'Espresso di questa settimana. Con questa segnalazione abbiamo concluso la nostra puntata di oggi. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.